Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento tutti i sabati, tutte le domeniche con i settimanali, i mensili, insomma i periodici in genere. Facciamo qualche consiglio, diamo qualche consiglio di lettura, anche qualche segnalazione di argomenti che prendiamo dalla stampa appunto italiana e straniera. Cominciamo da una cosa solo apparentemente leggera che è su Newsweek questa settimana. Avrete sicuramente letto, avrete sicuramente sentito di questi continui record che stanno interessando la quotazione dell'oro. L'oro, complice appunto le incertezze, specialmente sui conti americani, continua a segnare nuovi record di giorno in giorno, quindi è andato oramai a più di un dollaro e mezzo per oncia, insomma la sua quotazione continua a crescere. Newsweek, con un divertissement, come si dice, cioè con un alleggerimento, propone in una pagina alcune cose che in realtà costano più dell'oro, anche se non ce ne accorgiamo magari. Ad esempio, è carino sapere che l'iPad 2 sostanzialmente costa molto di più, se lo calcoliamo con il valore dell'oro, cioè il peso per oncia, stiamo a $23.45. Forse non era difficile intuirlo, però fa comunque effetto vederlo scritto: la cocaina costa tre volte più o meno quello che costa l'oro. E poi uno Stradivari, un violino Stradivari, che è un altro dei riferimenti che vengono presi da Newsweek. Bene, un violino Stradivari costa 178 volte il costo dell'oro, stando, ripeto, attorno a una quotazione di 1,50, che è quella di questi giorni, sperando di non essere superati nel, come dire, di minuto in minuto, poiché le incertezze economiche poi favoriscono sempre la rincorsa al bene rifugio. L'oro è considerato, come sappiamo, un bene rifugio per eccellenza. Se volete, anche il cane più costoso del mondo, che viene calcolato a peso, non viene precisato meglio di così da Newsweek, costa in realtà parecchio di più dell'oro, però il record va assolutamente al violino Stradivari. Un diamante di 3 carati, se vogliamo restare sui beni rifugio, invece può arrivare a costare 19 volte quello che costa l'oro, sempre appunto facendo questo parametro assolutamente curioso, naturalmente non c'è nulla di scientifico, di prendere lo stesso peso e vedere che cosa ci potrebbe costare di più. Questa per la prima segnalazione di Magazine 24 di oggi. Allora, visto che siamo in tema di economia, in qualche modo, con questo andamento dell'oro, ci rivolgiamo ad altro consumo, come sapete, rivista dei consumatori, rivista che viene diffusa in abbonamento, segnala nell'ultimo numero in uscita di aprile, appunto, l'aumento del prezzo del cinema. Lo abbiamo letto, lo abbiamo sentito. È interessante segnalare che nell'osservatorio prezzi, appunto, come precisa altro consumo, l'aumento corrisponde a 6 volte il tasso di inflazione. Spiega infatti altro consumo: il biglietto del cinema, che da tempo non saliva di prezzo, aumenterà di 1 euro a partire dal prossimo 1 luglio. La crescita è stata prevista nel cosiddetto decreto mille proroghe. A conti fatti, è sempre l'argomentazione di altro consumo, è un aumento del 13%, il che significa 6 volte superiore appunto al tasso di inflazione. I fondi raccolti serviranno a finanziare iniziative a sostegno del cinema italiano, ma altro consumo è abbastanza scettico sul punto. Dice: dato il periodo di crisi economica internazionale, il provvedimento non sembra brillare per lungimiranza. Sono 2 le componenti che incidono di più sull'aumento dei prezzi al consumo, ricorda sempre la redazione: il costo del petrolio, che è una variabile difficilmente controllabile e che poi si ribalta, appunto pesa sui carburanti e sull'energia, e poi le tariffe regolamentate, che riguardano alcuni servizi, e negli ultimi mesi abbiamo assistito ad aumenti proprio in questi settori: autostrade, trasporto pubblico, telefonia, acqua. Viene ora la volta del cinema, tra l'altro è l'ultimo appunto che viene segnalato da altro consumo nel numero di aprile. Un settore che sembra godere di buona salute, perché nell'ultimo anno c'è stata una crescita degli spettatori dell'11%, quindi un dato positivo, ma che si va ad affiancare appunto a questo aumento che scatterà da luglio. e riguarderà tutti un cambiamento a cui assisteremo entro la fine dell'anno e che prendo appunto sempre da altro consumo. Cambiano le etichette che troviamo nei negozi di elettrodomestici per indicare la qualità, la bontà delle prestazioni energetiche di lavatrici, frigo, lavastoviglie e per la prima volta anche delle televisioni. Allora, naturalmente queste etichette sono molto interessanti anche se non sono semplicissime da leggere e vengono utili perché consentono anche di individuare modelli che magari spendendo qualche cosa di più però consentono poi negli anni un risparmio in termini ad esempio di energia elettrica ma anche di acqua o di efficienza comunque complessiva dell'apparecchio. Ricorda Altro Consumo nella sua inchiesta etichetta che la Commissione Europea ha adottato i primi regolamenti che modificano l'etichetta energetica di frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, per la prima volta la estendono anche ai televisori. Cosa cambierà? Cambiano forma e contenuto delle informazioni, c'è una ricaduta pratica importante sulle nostre scelte di consumatori. Le classi energetiche che già esistono, che forse ci avete fatto caso, in queste etichette sono segnate con delle frecce di colore diverso, la freccia di colore rosso è quella diciamo che corrisponde alla scala meno efficiente dal punto di vista energetico, via via si sale e la freccia più corta e di colore verde invece corrisponde alla classe più efficiente. Ecco, siamo abituati a vedere delle lettere dalla A alla G, vengono inserite le classi A+, A++, quindi con due segni più, e A++. In questo modo si cerca di segmentare sempre meglio la efficienza energetica degli apparecchi. Spiega sempre Altro Consumo che i produttori avranno tempo fino a dicembre di quest'anno per etichettare gli apparecchi. È probabile che per adesso in negozio ci siano pochi modelli con le nuove indicazioni. Ci sono anche poi dei nuovi simboli con dei valori indicativi e naturalmente il consiglio della redazione di Altro Consumo è impariamo a leggerli, perché se scegliamo bene potremmo risparmiare diverse decine di euro l'anno. A questo proposito, ad esempio, su una TV da 40 pollici più efficiente dal punto di vista energetico si calcola ad esempio un risparmio che può andare da 12 a 15 euro, con una lavastoviglie o una lavatrice si può risparmiare fino a 20 euro in un anno e un frigorifero di classe A+ fa risparmiare, secondo sempre i calcoli di Altro Consumo, 16 euro l'anno rispetto alla A semplice, cioè alla A senza più, che finora ci guidava, diciamo, nella scelta dell'efficienza energetica degli elettrodomestici. Restiamo in qualche modo in tema di impianti domestici, però passiamo la frontiera, perché su Nouvel Observateur si torna su un tema in realtà ciclico nelle riviste, ciclico diciamo nei magazine non solo italiani. Il consumo di musica digitale, la crisi dei supporti per il consumo di musica, cioè in poche parole, e lo ricorda anche Nouvel Observateur questa settimana, la vendita di CD, di DVD musicali è sostanzialmente in calo costante da 10 anni a questa parte. Il motivo è naturalmente la diffusione dei file di tipo digitale, ma soprattutto anche la diffusione non pagata. In una tabella che viene proprio riportata da Nouvel Observateur si vede come, solo prendendo come riferimento 4 anni dal 2007 al 2010, la vendita di supporti fisici per la musica sia costantemente in diminuzione, ma non sia assolutamente compensata dalla vendita di file digitali, perché naturalmente lo scambio libero, il cosiddetto peer-to-peer o più semplicemente anche la cosiddetta pirateria finiscono per influenzare appunto la vendita di questi beni. Tutto questo però viene ricordato, queste sono cose in qualche modo note o che abbiamo già potuto analizzare, viene ricordato perché sta ripartendo la moda del disco di vinile. Ora magari molti degli ascoltatori hanno solo potuto intravedere i dischi di vinile che sono spariti dalla circolazione con l'avvento dei primi CD, ma il disco di vinile sta tornando proprio come oggetto fisico, ne vengono fabbricati di nuovi e soprattutto c'è voglia di comperarli, quindi al di là del fatto che permettano di reagire alla pirateria o allo scambio, diciamo un po' allegro dei file musicali, bene, ci segnala proprio nell'osservatorio che c'è stata una crescita del vinile nelle vendite del 70% nell'ultimo anno, e ci sono oramai delle giornate dedicate al vinile sia negli Stati Uniti, da cui poi prende le mosse l'inchiesta di Bernard Lupia che viene riportata su Nouvel Observateur, sia anche in Francia, appunto, giornate dedicate alla promozione del disco di vinile. Quindi ritorna un oggetto di culto magari per gli ascoltatori meno giovani, e che invece i più giovani non hanno potuto apprezzare ancora nella loro vita di ascoltatori. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando di dischi di vinile e più in generale anche dello stato di salute dei supporti musicali, stato di salute non buono ormai da anni. Su Focus di questo mese c'è un bell'articolo che si occupa appunto delle copie, della musica, e così quasi implicitamente ci ricorda anche dei dati molto divertenti sull'invenzione del grammofono. Il tutto diciamo diventa una sorta di riflessione sulla cultura della copia, o se volessimo avere dei riferimenti culturali alti, insomma, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità. E perché? Perché appunto Kevin Kelly, che è l'autore di questa rubrica che viene presentata su Focus, presenta nel suo blog queste riflessioni sulla tecnologia, e la riflessione di questo mese è la fine dei copioni. Sottotitolo: far copie oggi è facile, il risultato è che le riproduzioni perdono valore. Perché? Perché fino alla, diciamo, impossibilità di riprodurre alcune manifestazioni artistiche, come ad esempio la musica, questo limitava molto la fruizione, limitava molto la diffusione della musica, però la rendeva anche nello stesso tempo un'esperienza unica. Cioè assistere a un'opera, assistere a un concerto era un'esperienza in qualche modo unica e difficilmente replicabile più volte nella vita per la stessa opera, per lo stesso concerto. Mentre naturalmente la diffusione delle copie ha facilitato, ha completamente modificato sia il nostro rapporto con la musica, sia anche naturalmente il valore di queste esibizioni. Tutto questo ha un inizio, e che l'inizio è il grammofono, ed è proprio da qui che parte Kevin Kelly. Dice: il grammofono, con il suo armamentario di registrazione al seguito, ha fatto la sua comparsa nell'arcipelago indonesiano nei primi anni del 1900. C'erano dei musicologi che cominciarono a registrare i complessi strumentali locali, e i musicisti, racconta Kelly, e il racconto è molto divertente, i musicisti erano perplessi perché nella loro tradizione le melodie popolari circolavano comunque velocemente per i villaggi, avevano una vita poi di qualche settimana, quindi c'era una sorta di hit parade da tradizione assolutamente orale, senza alcun supporto, e quindi perché mai qualcuno avrebbe voluto ascoltare un'interpretazione vecchia di un pezzo che per di più era già diventato obsoleto, perché è sostituito dai nuovi brani che venivano continuamente proposti durante appunto le feste dei vari villaggi. Per avere un'idea, spiega Kelly, di questo sbigottimento dei musicisti di fronte all'invenzione, alla prima fissazione appunto su l'antenato del vinile delle loro esibizioni, immaginatevi che vi stiate godendo una cena succulenta e piombino in Città degli Alieni con una scatoletta di legno laccato, azionino una manovella e vi dicano: da questa scatoletta noi potremmo riprodurre in qualsiasi momento i sapori che tu stai in questo momento sentendo nella tua cena. Anziché un nuovo manicaretto, insomma, gli alieni sembrerebbero proporre di riprodurre le sensazioni di quello vecchio. E questo è stato esattamente l'inizio dell'era della copia per la musica. Naturalmente questo ha modificato completamente il nostro gusto, la nostra sensibilità musicale, e se una volta appunto poter vedere un'opera era appunto un'esperienza unica, raramente anche un melomane riusciva a vedere più volte la stessa opera, adesso invece è una cosa assolutamente alla portata della vita quotidiana. Carino anche qualche dato che viene, che accompagna questo ricordo, questa segnalazione di Kevin Kelly. Dovete sapere che a fine 800 i cilindri dei fonografi contenevano circa 2 minuti di musica. Oggi in un iPod Nano, quindi il più piccolo dei supporti di cui potremmo disporre, possono starci fino a 4.000 canzoni. E allora, queste le origini, per dir così, della diffusione virale, della diffusione della musica con la possibilità appunto di riprodurla. Un altro elemento caratterizzante della nostra società, come sapete, lo abbiamo ricordato anche nelle puntate scorse, è il design, cioè poi appunto questo binomio tra arte e industria. Al design, come vi avevamo detto nelle puntate scorse, il Sole 24 Ore sta dedicando appunto una collana sui maestri del design. Questa settimana è in edicola il volume sui fratelli Castiglioni, dedicato ai fratelli Castiglioni. Il primo volume era stato su Gio Ponti e, ricorderete, era uscito in coincidenza con il Salone del Mobile di Milano. Questa appunto è la proposta del Sole 24 Ore, la collana dei maestri del design in 20 volumi, ogni giovedì c'è una nuova uscita. Torniamo invece ai tempi moderni con la inchiesta dell'Espresso dedicata al diritto all'oblio. E qui diciamo, tanto ci poteva far riflettere la notazione di Kevin Kelly sull'avvio della coppia, la prima possibilità di riprodurre la musica, di fermare la musica, di poterla riprodurre quando si voleva, tanto fa riflettere l'inchiesta di Alessandro Longo sul diritto all'oblio, che trovate sull'Espresso di questa settimana. Che cos'è il diritto all'oblio? Il diritto all'oblio è un dibattito molto serio, un concetto molto serio su cui si stanno un po' arrovellando i legislatori, i giuristi, gli esperti di internet, di nuovi media in tutto il mondo. E perché è un dibattito molto serio? Perché c'è questo problema: con la diffusione degli archivi digitali sostanzialmente la nostra memoria diventa illimitata, noi possiamo trattenere richiamare al presente accadimenti che sono avvenuti molti anni fa. Naturalmente, se sono stati collocati negli archivi digitali, possiamo naturalmente anche richiamare avvenimenti che sono stati poi superati. Il caso più classico che si cita è quello della persona che magari ha subito un rovescio finanziario, giudiziario, di qualsiasi natura, che poi magari da questo rovescio si è ripresa, un fallimento, quello che volete voi. Ecco, se noi non disponiamo di questo diritto all'oblio, potremmo avere solo memoria, diciamo, del suo primo fallimento e faticare poi a ritrovare l'evoluzione delle sue vicende. Allora si sta ragionando sul: non sarebbe meglio se avessimo un punto oltre il quale non andiamo nella nostra ricerca? Naturalmente il punto teorico, detto così, sembra banale, in realtà è un punto teorico complicatissimo, e lo ricorda appunto Longo. Dice: questo diritto all'oblio, diritto a essere dimenticati, una bravata giovanile, anche il fatto stesso di avere fatto qualche cosa di illecito ma di non così grave, che però potrebbe poi condizionare il nostro futuro, la nostra vita professionale, dice, questo è un diritto che si scontra con l'enorme potenziamento dell'informazione permesso da internet. La rete ha la memoria lunga, ricorda tutto, per di più permette a tutti di accedere a fatti e notizie del passato. Prima bisognava bussare alla porta delle redazioni, entrare in biblioteca per scoprire vecchie notizie di cronaca su persone o aziende, ed era difficilissimo trovarne spulciando pagina per pagina. Oggi basta digitare un nome su un motore di ricerca e si trova tutto. Questa è la spiegazione appunto di Francesco Pizzetti, che presiede l'autorità per la privacy. I vari garanti europei come Pizzetti stanno appunto lavorando al problema, così come la Commissione europea. Tra l'altro, nelle prossime settimane, informa Alessandro Longo, verrà presentata proprio una normativa sul diritto all'oblio ai tempi del web. Naturalmente c'è un rovescio della medaglia: il diritto all'oblio può essere giusto, sacrosanto, può essere anche però l'occasione per un colpo di spugna, come appunto viene intitolata l'inchiesta di Alessandro Longo sull'Espresso. Questo è il binomio, questa è la dicotomia, meglio, che si cerca di sanare con questa proposta che dovrebbe venire proprio dalla Commissione europea. E con questa segnalazione noi concludiamo la nostra puntata odierna di Magazine 24. Grazie a Mauro De Angeli questa mattina in regia, grazie come sempre a Danita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordiamo che potete rivolgervi al sito di Radio 24 per informazioni sui nostri programmi www.radio24.it. Potete anche scriverci, abbiamo una email, magazine24, il 24 è scritto a numero, @radio24.it. Buona giornata a tutti.